Letture di Radio 24. Sono quasi 60 anni che i vari governi emanano leggi per combattere lo spreco di denaro pubblico, ma senza ottenere particolari risultati. Ancora oggi, ad esempio, nessuno sa quante siano le società a partecipazione pubblica, scrive Laura Maragnani su Panorama. Non è chiaro dove siano, che cosa facciano, quanta gente esattamente ci lavori e con quali risultati. Secondo il Ministero dell'Economia sarebbero circa 8.000 e 10.000 secondo il Dipartimento delle Pari Opportunità di Palazzo Chigi. Ecco una breve storia dei vari tentativi fatti per sopprimere gli enti inutili in una ricostruzione fatta per Panorama da Dario Borriello. La legge numero 1404 del 1956. È questa la madre di tutte le battaglie italiane contro gli enti inutili, a cominciare dall'opera Balilla e dagli enti fondati da Benito Mussolini, in dissesto o non in grado di raggiungere il loro scopo. Negli anni 70, con la riforma sanitaria e la nascita delle regioni, si aggiunsero decine di casse mutue ed enti previdenziali, per un totale di 839 enti da estirpare. Nel 2009 ne sopravvivevano ancora 60, che il governo Berlusconi dichiarò estinti in un colpo solo, passandone il patrimonio alla Fintecna. Romano Prodi, con la legge finanziaria 2007, provò ad accorpare alcuni enti pubblici, tagliando quelli inutili e sfoltendo i compensi di manager e CDA. Risultati? Zero. Ci riprovò Silvio Berlusconi con la legge 122 del 2010. Obbligò tutti i comuni sotto i 30.000 abitanti a liquidare o cedere entro settembre 2013 ogni partecipazione in società in perdita o da ricapitalizzare. La legge fu però abrogata nel 2014 dal governo Letta e soltanto un comune su 5 ha obbedito. Nel 2011 Mario Monti soppresse circa 40 enti inutili, Arcus, ISA, Istituto per il Microcredito, Indire, ma molti risorsero quando lasciò Palazzo Chigi. Così, su 1.472 enti da eliminare, nel giugno 2014 ne esistevano ancora 1.092, con 5.559 poltrone. Da allora, la spending review di Carlo Cottarelli non ha portato a nessun taglio. Idem la proposta per l'amministratore unico nelle società a totale partecipazione pubblica, ferma in commissione bilancio della Camera dal giugno 2013. Matteo Renzi, prima delle ultime europee, aveva promesso un nuovo censimento degli enti inutili e guerra all'ultimo sangue. Il censimento non è mai pervenuto. E la guerra? Si vedrà. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi del servizio di Laura Maragnani e Dario Borriello, Tagli addio, abbiamo scherzato, da Panorama del 21 ottobre. Digital Radio Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio, devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi, è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Letture di Radio 24. Lunedì scorso un pensionato di Vaprio d'Adda, cittadina alle porte di Milano, si è trovato per l'ennesima volta dei ladri in casa e ha fatto fuoco, uccidendo uno dei ladri. La ricostruzione degli avvenimenti fatta dal pensionato non ha del tutto convinto gli inquirenti e per lui l'accusa è passata da eccesso colposo di legittima difesa ad omicidio volontario. In attesa di conoscere la verità, l'episodio ha, come prevedibile, scatenato una serie di reazioni. Soprattutto per l'accusa di omicidio volontario rivolta a un uomo che si è difeso da un tentativo di furto in un paese dove avviene mediamente un furto ogni due minuti e dove il 96% dei furti denunciati resta impunito. Negli editoriali pubblicati sui giornali il giorno successivo si sottolinea come casi analoghi di legittima difesa che finisce nel sangue avvengano soprattutto nel profondo nord. Lo fa Gramellini sulla Stampa, che critica il fatto che il pensionato sia stato trasformato in eroe popolare. e lo fa Gian Giacomo Schiavi sul Corriere, che scrive: prima di improbabili paragoni con il Far West, mettiamoci nei panni di un cittadino che sorprende i ladri in casa. Se avessi avuto il revolver nel cassetto, chissà come finiva, confidò il giudice D'Ambrosio dopo il furto nell'abitazione. Francesco Sicignano il revolver ce l'aveva, a portata di mano, ed è finita come è finita. Si può morire per quattro soldi e qualche oggetto d'oro, a Vaprio Dadda come in qualsiasi comune del profondo nord, quando la paura dei ladri e delle bande che svaligiano ville e appartamenti crea psicosi a lungo sottovalutate. Ma chi spara non è un eroe. Niente autorizza la giustizia fai da te. Se questo avviene è perché c'è un deficit di fiducia, una percezione di insicurezza che sindaci e cittadini del nord lamentano da anni. Un allarme confermato dall'inchiesta di Aldo Cazzullo sul Corriere. Quando lo Stato lascia sguarnite certe zone o limita i controlli, non ci si può sorprendere se la gente si difende. Chi ha subito un furto in casa sa che la violazione del domicilio è una ferita sempre aperta, una spoliazione di beni e di intimità. Ci si difende con le inferriate, gli allarmi, le telecamere e le porte blindate, ma c'è sempre un elemento irrazionale che scatta quando ci si trova davanti a un ladro e si teme per l'incolumità propria e dei familiari. È successo in passato a Castenedolo, nel Bresciano. Un ladro è stato ucciso dal proprietario della casa che stava per svaligiare. Reazione di sopravvivenza o eccesso di legittima difesa? Omicidio volontario, lo rubricò il giudice che rilasciò subito l'indagato. Identica è l'accusa per il pensionato che ha sparato e ucciso il giovane rumeno, sorpreso nella sua abitazione a Vaprio Dadda. A suo sostegno sono arrivate le prime fiaccolate, persino l'esaltazione dell'autodifesa con la pistola. In assenza delle risposte, di una riflessione sullo stato delle forze dell'ordine nei territori e nelle zone lasciate alle scorrerie delle bande di ladri e malavitosi, la politica prende le sue scorciatoie propagandistiche. Resta il fatto che la gente ha paura, che i controlli sono scarsi, che non sempre quelli che vengono sorpresi in flagranza di reato stanno in galera. E poi qualcuno spara. E queste erano le parole di Gian Giacomo Schiavi dal Corriere della Sera del 21 ottobre. Molto più incisivo, come prevedibile, Mario Giordano, che sul Libero dello stesso giorno scrive: ora lo chiameranno sceriffo, vendicatore, pistolero. Ora lo attaccheranno dicendo che non si fa così, che non siamo cowboy, che la giustizia fai da te ci riporta al Far West. Magari qualcuno si alzerà per puntare il dito contro il pensionato Francesco di Vaprio Dadda. Quando si è trovato in casa ai ladri per l'ennesima volta, avrebbe dovuto offrirgli un caffè, un cioccolatino. Accomodatevi in poltrona mentre io chiamo la polizia. Se vi serve il bagno, è la seconda porta a sinistra. Invece lui ha avuto paura. Pensate un po', che strano. Si è trovato di notte i banditi in casa e ha avuto paura. Tanta paura. Ha pensato alla moglie, al figlio che dormiva al piano di sotto, alla nuora, ai due nipotini ancora piccoli. Ha preso la pistola e ha sparato. E così siamo ancora qui, un'altra volta, a scrivere quel che ci sembra normale, ma in questo paese non lo è. Nessuno può essere contento quando c'è un morto. Nessuno può gioire per un ventottenne ridotto a cadavere. Ma se qualcuno lunedì scorso doveva proprio restare ucciso, meglio che sia toccato al ladro. Perché troppe volte in queste ultime settimane abbiamo raccontato di pensionati massacrati, seviziati, financo rapiti e buttati in una roggia ad agonizzare per ore prima di morire. Abbiamo detto di novantenni imbavagliate e soffocate, di teste fracassate senza pietà, anziani torturati da questi delinquenti che non esitano ad ammazzare con sciupio di crudeltà, magari per rubare soltanto una manciata di euro. Scusate, abbiamo pianto troppe lacrime, nel silenzio generale, sulle vittime dei furti in casa. Non ce ne restano per piangere un ladro. Ci sono giorni in cui, inevitabilmente, la vita ti interroga e ti chiede da che parte stai. E noi, fra il bandito e il pensionato, ancora una volta non abbiamo dubbi. Stiamo dalla parte del pensionato. Stiamo dalla parte di Francesco Ignazio Sicignano, 65 anni, uomo onesto, per bene, una vita di lavoro nel negozio di strumenti musicali nel centro del paese, una casa costruita con anni di sacrifici, una persona che a Vaprio Dadda tutti conoscevano e di cui nessuno osa dir male. Mai un gesto fuori posto, mai una lite fuori dalle righe. Da agosto, raccontano, aveva subito 3 o 4 furti in casa. Per questo aveva preso la pistola, con regolare porto d'armi. Era spaventato, disperato, e se ha sbagliato, l'ha fatto per questo, paura e disperazione. Non se l'è andata a cercare, il ladro invece sì. Alla fine, la differenza è tutta in questo dettaglio. Lo chiameranno sceriffo, vendicatore, pistolero, ma se nessuno fosse andato a rompergli le scatole nella sua villetta, il pensionato non avrebbe fatto del male al ladro, come non ne aveva mai fatto a nessuno nella sua vita. Il ladro, invece, voleva fare proprio del male al pensionato. Il ladro viveva per il male, lo provocava, lo distribuiva. Alla fine ne è rimasto travolto e ucciso, e questo non ci può rendere felici. Ma la distinzione è chiara, lui è il criminale. Francesco la vittima. E fa rabbia sapere invece che quest'ultimo è addirittura accusato di omicidio volontario. Volontario, capito? Non eccesso di legittima difesa. Omicidio volontario. Come se davvero l'avesse voluto lui quello scontro a fuoco. Come se l'avesse voluto lui un ladro in casa. L'ennesima rapina. La paura che ti fa tremare i polsi fino a perdere la testa. Dire che chi viene aggredito in casa sua e spara per difendersi commette un omicidio volontario è intollerabile. Anche se il reato fosse stato ipotizzato solo per ragioni burocratiche, è intollerabile. Perché fa capire, ancora una volta, che questo non è un paese per gente onesta, che questo è un paese che tende a proteggere più i delinquenti che le persone per bene. Questo è un paese in cui agli agenti di polizia viene prospettata l'infamia di 9 euro al mese d'aumento e ai clandestini vengono assegnati 35 euro al giorno per vitto, alloggio e vari svaghi. Questo è un paese dove i criminali vengono catturati dai carabinieri e subito rilasciati dai magistrati, dove se rapini e spacci abitualmente hai una specie di lascia passare. Se assalti a mano armata i supermercati, ti danno pure la casa popolare a 12 euro al mese. Ma se provi a lavorare tutta la vita in modo onesto, se paghi le tasse e obliteri il biglietto del tram, se non scippi le vecchiette e non fai saltare per aria i bancomat, ti senti improvvisamente abbandonato, dimenticato dallo Stato. In altre parole, indifeso. È così che si deve essere sentito lunedì notte anche Francesco, il pensionato di Vaprio d'Adda. E per questo ha sparato. Immaginiamo adesso il rimorso che lo scuote, immaginiamo il turbamento, l'angoscia davanti a quel giovane corpo senza vita che lui per primo ha soccorso. Graziano Stacchio, il benzinaio di Ponte di Nanto, l'altro giorno raccontava: «Da quel momento non riesco più a dormire la notte. A volte mi sembra di impazzire. Come non credergli?» Ma noi vorremmo abbracciarlo forte, il pensionato di Vaprio d'Adda, esattamente come abbracciammo allora Stacchio. Noi siamo con lui. Noi siamo con Francesco Sicignano. Noi siamo con la gente per bene, non con quella che va in giro a rubare. Noi siamo con chi vuol vivere sereno a casa sua, non con chi le case le vuole solo svaligiare. Noi siamo con chi ha paura, non con chi semina terrore. E ve lo confessiamo senza ipocrisia. Ci dispiace dover parlare di un ladro morto, ma ci sarebbe dispiaciuto assai di più se oggi avessimo dovuto raccontare di un altro pensionato morto, l'ennesimo, che magari sarebbe stato liquidato con 2 righe in cronaca, mentre il solito cretino di palazzo strillava i grandi successi del governo Renzi nella lotta alla criminalità. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Mario Giordano, «Vietato difendersi dai banditi», da Libero del 21 ottobre.